lontanissimo. Il giorno che muore mia madre, non so che cosa succederà, cosa succederà. Il giorno che muore mia madre, me lo tira a campare fino a 80, 100 anni. Ma se muore mia madre è un casino davvero, eh. Sì, vabbè. Come tutti gli altri sono andati avanti, non è che purtroppo la vita è quella, Luca. Se un giorno dovrà morire tua madre, tu potrai andare avanti lo stesso, con le tue forze. Certo, via, per carità, per carità. Adesso, vabbè, lasciamo perdere, va. Non c'è problema, non c'è problema. Già, tu la pensi così, io la pensi così. La penso diversamente. Ognuno la pensa come cavolo vuole. Io la penso così, boh. Io ci stanno chiamando, ma in comio? Non lo sento, tu, ma di QRM, QRM a 4, 4, 4. Davvero, chi è? Vale, piccolo piccolo, ti tiro fuori con le spinge. Sabunda mia. Paoletto, io ti ascolto Santiago 9, avanti. Cava cava, seria. Cos'è che c'è da brontolare quello lì? Cos'è? E non posso accendere la baracchina che devo sentire lui brontolando. Beh, cane morto. Già, Paoletto, aspi sento. Lo sta brontolando, no? Dove c'è la pura verità, ah no. Ci mancherebbe, però non lo so, è una vita, per me, secondo me, poi per gli altri può fare quanto vuole, secondo me non vale la pena vivere, vive la cosa dopo, ma mi dico questo io, poi sarò ignorante quanto vuoi, guarda, ma a cosa, per quale motivo dobbiamo vivere, poi moriamo, cosa facciamo? L'altra vita, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e poi, non lo comprendo. Tu, quelli sono problemi più grandi di te, non te li devi manco mettere, Luca. Uno vive per vivere, non per pensare a morire. Ma a cosa già? Tu nella tua vita fai quello che credi, cerchi di vivere nel migliore modo possibile. E devi essere anche un po' più diplomatico vivendola, dai. Perché se stai a prendertela per ogni cosa, ci soffri ed è peggio. Magari sei sensibile al carattere e la pensi così anche per quello. Io già ti ho capito perché so anche qualche tua situazione, quindi ti capisco. Roberto Quadrato. Non parliamo di cose tristi, ma ci pare che ora si metta a fare questi discorsi. Vabbè, io questi problemi qui me li mettevo quando avevo 18 anni. Dicevo, per che cosa dobbiamo vivere se poi dobbiamo morire? Questi qui erano problemi che ti metti a quell'età lì, proprio perché sei in un periodo che vuoi capire tante cose, e se hai un po' di cervello ci pensi, no? Beh, io sono totalmente il contrario di quello di che sta dicendo Luca. Se non mi basterebbe a me una vita per vivere. Non so, perché secondo come le prendi le cose, capisco? Ci sono delle cose che ti puoi prendere sia in una maniera che nell'altra. Se le prendi male, le vivi male. Se le prendi bene, le vivi bene. Quando sei con gli amici, invece di scherzare, stai amusato. E quella è la ragione. Gli altri si divertono e tu no. E io ho amici che sono così, che non ridono manco se crolla il mondo, non li fa ridere nulla. Ma bisogna vivere la vita, giorno per giorno, secondo me. Eppure sono delle bellissime persone, ci puoi dialogare tranquillamente, però il carattere. Non è il caso mio, assolutamente il contrario. E lo so, però a mio avviso sono le esperienze e le situazioni che ti portano a formarti un certo tipo di carattere. Sicuramente sì, magari lui c'ha una situazione, non lo so, in famiglia qualcosa gliel'hanno turbato, non lo so io adesso come lui. Vabbè, adesso non facciamo un'analisi, ma non li do tutti a Luca, capito, certe cose non è capito, prima deve imparare a viverle più diciamo superficialmente le cose. Ah, non abbassarsi sulle difficoltà, andare avanti, tanto non c'è niente di irrimediabile. Infatti, certo che sì, bisogna anche scherzare, che sei un manico mio russo, via. Certo pure, io cambiamo un discorso, dai, che sennò diventiamo troppo possibile. Oggi è giunta la scimmia, lo voglio pagare questo. E da quello che è successo, perché si vuole stare ogni atto, capito? Luca, riprendi là, io ridi, scherzo e fai. Mario, cosa ne pensi? Io la penso totalmente al contrario di Luca. Quando mi lascio travagliare, già non so quali anni mi lascio subito, non c'è di senso. Pochi maledetti subito. E non è che la situazione mia sia più felice della sua. Però, niente, bisogna combattere e chi la dura la vince. Appa. Io Luca, fa vedere se non si va a preoccupare. Tu con l'allegria insomma, Luca! Lo fa. Ma chi vedo? Vale. Oh. Piccolina. Tuo figlio chi è? Mio figlio, l'ha chiamato Facinizzo. Facinizzo? Luca. Come sono con Luca? Sì, l'ha visto. Ah, io Luca, riprendi che mi sono preoccupato. E là magari non è dell'umore giusto, gira, ti divino, se può stare, magari non ne ha avuto le riprese. Mario, riprendi il terapia, io ma l'ha passata a Mario che è preso un verso, avanti, mi riguardo. Andiamo a mangiare Luca comunque. Mangiare andà. Tu mi dimmi che domani va altro giorno. Che le parole? Mario, dove sei visto a papà? Cappa cappa, se mi contendi il rosso, l'acqua. Che lo sai, io ti ascolto sempre, Paoletti, non ce n'è problemi. Che a questa terra si chiama una seconda torre. vabbè, Luca, oggi è un po' con le marroni girati, là. E purtroppo, anche lui quando andava lì, passava lì di notte, fatta, dammi di là. Senta, le prime di tutte, dammi di là, parlo subito, perché uno, cioè, lo sa lui cosa c'ha a casa sua. Anche se no, si vede che il documento di Luca che aveva di lui sulla macchina della Serena, e gli ha fatto colpo al capo, vabbè, ha detto che era giù. Ecco, voglio di là, le posizioni di banca, a me come dai rimedi, non saranno. Se no, non ci sono i rimedi. No, no. Boh, te ne immagini cosa dico ai bambini adesso? Ma sentite, mi è sembrato di aver capito, no? No, mi hai detto Trudio. Marcolino, a papà queste cose, boh. Ma sai cosa voleva che facessi? Si è messo sotto le coperte, non è letto, voleva che mi coprisse anch'io. Aspetta, no che c'ho caldo. E allora si è incazzato, si è alzato e mi ha detto, Trudio. Va bene. Bobo, a tu, riprenditela. Gianni, ma non sei rientrato a lavorare? No, negativo, rientro sabato. Sabato? Ma stai meglio oggi? Dalla voce sembra di sì. Sì, sono meglio. Sono meglio, ma un po' di dolore mi ha lasciato ancora, la tosse. Questo dolore al petto, boh, allucinante. E fatti controllare, non è venuto il medico? No, non era comodo, capito? Dovuto andare mia moglie a farsi ordinare tutto e tutto quanto. Ti prende, ti fa infiammare le parti, c'ho questo orecchio che mi fa male, questo è tutto l'orecchio, la parte dell'orecchio è tipo come se avessi preso un'occhiata. il piede e il petto adesso mi fa male, cioè avevo anche mal di testa l'altro giorno. Vabbè, mal di testa va anche per la febbre. Può darsi. E comunque ti prende tutti gli arti, capi? Ti prende le aggiunture degli arti, è allucinante. E davvero, per come ero, già sto migliorando, sì, però fino a sabato non riesco. Caffa. Ora c'è la compagnia del baracchino, se no non abbana lui. No, già c'è mia moglie a casa, non c'è problema. C'è il baracchino, c'è il stereo, c'è il computer, così di roba a casa. Non c'è problema, PlayStation, cosa vuoi, karaoke. Vabbè, la giornata di divertimenti, dai. Molti apparecchi non li stiamo più usando, il karaoke per dire, una domenica ci siamo messi tutta la famiglia che riesce a riunirsi la domenica, giusto bene, che stanno insieme, e ci siamo messi a cantare una canzone per uno, verso le 5, così 5 e mezza, una canzone per uno, abbiamo cantato io, mia moglie, Emanuela, Marco, e dopo due mesi sono saliti laggiù, per cortesia, mi spenga quell'apparecchio che mia figlia sta studiando. Vabbè, se non posso dialogare a te, si muovono i buffi. Aspetta, io gli ho detto, allora, mi spenga questo apparecchio, a comandare va in casa sua, gli ho detto, a quello di giù. Se me lo chiede per cortesia è un conto, e posso anche abbassarglielo, ma a rompere le uova nel paniere c'è sempre tempo. Gli ho detto, no, se mi sei no, veniamo di se mi sei in mezzo, mi ha detto, no, già, dai. Forse abbiamo disturbato. Oh, la figlia è sempre con questo cacchio di piano, a tutte le ore, alle 3, alle 4, sempre facendo questa zigomba e driuli, da da da da da da, e invece non ha mai distrutto, la figlia studia, Ma gli imbecilli ci sono altre parti. Ma per dire, ce l'abbiamo fermo da quando sono venuti, perché adesso ci dà cosa a usarlo per poi disturbare, no? Ma non so, anche io mi metto un po' di problemi, ma gente non c'è gente non gliene frega niente. È bello che vengono sempre a bussare qua, guarda che misciuga, se non hanno mai a toccare la riana di misciuga. Poi tu mi fai un problema, ma anche io adesso sei la scusa, Oh, non ci vengono più qua, non ti preoccupare, ci viene di scusare il cane. Sì, ma ti hanno rotto le scatole per un po' di tempo, non è così anche a te. E gli ho stampato tutte le leggi, caro mio, se tu un giorno dovessi venire a casa ti faccio vedere tutto quello che avevo preparato per fotterlo. Sì, sì, ma il problema era da loro, non era da te. Infatti, ma io le spalle coperte ce l'avevo, mi ho tutto stampato le leggi, le ho fatte avere al condominio, al capo condominio, mi sono raccolto tutte le firme dei condomini fino a quando ho piazzato l'antenna, tutto qua. Prima mi hanno messo la firma, ma con una clausola, dicendo praticamente che se disturbava me la facevano togliere, capito? Caffa, caffa, e invece è nuda. Nonno, non ce l'hanno fatta. Va bene, Mario. Mario, ci sei? Mario sta mangiando, forse c'è il boccone in bocca o... Chi è rimasto? Antonio. Caro Barrello, lasciatemi bene, e che diamine. Questo va tutto bello a posto, caldo a caldo, e fino a sentire sotto il tavolo, e senza posto. Io invece me lo devo preparare, me lo devo mangiare. Voi me lo fate bene, se no mi strippo senza l'acqua. Beh, non è il caso mio, perché il pranzo l'ho preparato tutto io. Vuoi sapere anche il menù? No, io mi sono fatto, allora, due penne alla arrabbiata, veloci, e poi mi sono fatto un'insalatina di fagiolini bianchi con cipolle, e i booster faccio la piastra. Già sono buoni, e col ketchup pure, il bio di Lombardo. No, io ho fatto riso alla milanese, praticamente riso con lo zafferano e i funghi. Poi ho fatto un sobuzzi di vitella con le patate in verde. Ah, è stato tutto buono. Una frutta, un po' di caffè e siamo a posto. Avete meglio da fare il caffè? Sovrano mi faccio il caffè. E me lo so che ti sto mandando la sigaretta. Stasera vale. Sì. Cappa, che devi fare? Bisogna combattere, però già, come uccelli di bosco, come trovo meglio, piglio il volo, me ne vado, perché così non si può andare avanti. andare a chiedere l'elemosina, scusa. Vabbè. No, ma lo capisco male. Tante volte la rabbia ti porta a fare delle cose che magari pur pensandoci bene non avresti fatto. E lo so. Però perché devono averla sempre loro il coltello a parte il manico? Perché loro fanno in fretta, ti dicono non ti conviene, non ci venire. Capito? Buona parte di quella gente lì ti dice non ti conviene, cosa ti devi fare? Poi c'è invece quell'altro che gira, dice io vengo, sino che va bene. E il giorno che non gli sta più bene, ok, lo piglia, allora lui ci fa pagare tutti quegli interessi. E da poi non bisogna nessun lupo. Lui lascia a poco, se lui non si è già capito, quando si informano, no, non lo prendono più da nessuna parte. Vabbè. Mario! Verso Papatango, sì. Sì, a positivo, scendendo con il suo viaggio, perché abbiamo finito per oggi. Sì, già va bene così, dai. Almeno non fa più pistello stanotte. Ah! ci è attaccato il rimorchio. Con il peso già ti spinge. Magia. Avanti, vabbè. No, vabbè, rimango un po' d'accordo, dai, che voglio andare via, poi vi saluto, dai. Grazie, anche tu mosso mosso, sì, vabbè, grazie, grazie a tutto. No, non sono mosso, sono un po' stanco, dai, mi sono sbagliato 5 minuti. Lo so. perché è gentaglia, Secondo me non comprende che i lati devono campare. Ma non solo con lui, no, anche con l'altro ho avuto la, la stesso. Cioè io ti denuncio, ma se sei benedetto, malamente. Adesso sono più calmo perché giustamente c'è mio figlio che è sempre con me, le cose le vede, le sa, le capisce. Niente, però è sempre così, è sempre dimmi dimmi, perché sa che se giro, giro male, sono dolori. Ma bisogna sempre prenderla con la calma, la cosa, cercare di ragionare. A me che da buio la vedo, non ve la fai più, pure quella ragione. Ma scusa, io ho famiglia. Sto lavorando per che cosa? Per la gloria, no, sto lavorando perché ho necessità di lavorare, però allo stesso tempo ho necessità di avere soldi per andare avanti, se no è tutto finito. Se tu non mi dai di denaro, io non posso andare a grande, pensami a Emilia Branchi che non mi ha pagato perché si occupava per la mancanza, ma non c'è là, ma se dammi di denaro, se no cazzo di sempre te giusti, no, non è così, no già. È che molte volte a malintrini e sui merimeri, perché poi uno, se non ti decide bene, tutto va bene, ma se decide male, prima di cambiare, se la vuoi di migliaia di anni. Vabbè, i suoi suoi, non è che ne debbi meno, i suoi suoi. Sembra che è come per dire a Portottone, io vedo certi operai che lavorano che scaricano il pesce, devono fare due lavori per guadagnare, prima lo scaricano e poi lo prendono nella strada. Ma sono cose assurde già, io siamo arrivati a un punto che uno non ne può più, cioè a me io da poco, il mese scorso, mi sono rotta la macchina, e vabbè, la macchina l'ho portata a aggiustare, l'abbiamo aggiustata, è finito. Cazzo, ma arriva una cosa di russi, 250 euro di russi. Cioè, dove si va? Fagotti e fagottiti. Cioè, sono cose brutte perché anche Luca adesso, per dire, lui non è sposato, vabbè, è con la madre, per quello che si mangia è stato mangia qualche uccellino, non è quella grande spesa. Però, cioè magari anche a lui gli piace vedere la madre contenta, questo, quell'altro, o non lo so, fargli un regalino ogni tanto. E allora c'è che pensa la carina, io regalo vai. Cosa fai? Uno si trova a casa e pensa e se no che ci ragiona o cosa, tutto va bene. Cosa va a ragione già di uno? E meglio non pulisce la razza chi. Lo più insetto può diventare pericoloso. Lo so. Che dopo quello del lavoro ti senti proprio tradito, capito? Perché in Cicato mi hai fatto un mazzo e da voi non mi bagano in mano. Appunto per quello. Io una volta stavo lavorando con uno, in centro storico a Sassari, e abbiamo tamponato tutta quanta la scala perché che aveva i muri molto umidi e non faceva né intonacarli e né niente perché era un bel umido. Abbiamo pigliato e l'abbiamo tutto quanto tabellato. Tabellato, fatta, era un momento di là, se di là, esiste, non esiste, dammi là, ma dammi di là. Beh, lo sai che mandato di là e si è facciato da un altro muro. Forse c'è una domanda di quelle. ci mettiamo d'accordo, se non ti serve lo uso io a pezzi, intanto è tutto bruciato dentro, viscio. Ecco. Uguale a quello proprio. Cioè, no, perdono un altro serve a me, poi, capito, per quello che sto dicendo. Boo! quello là è andato a riposarsi, si è dormito. Gli altri come sta chiamando mia moglie?